Letture di Radio 24. Benvenuti nella Germania da leggere. L'evoluzione del book crossing sta invadendo le strade tedesche. Sono le librerie pubbliche. E libere. Sì, perché il concetto è semplice. Prendi un libro o lasci un libro. Punto. Nessuna registrazione, nessuna scadenza per la riconsegna. L'idea nasce da Michael Obermann e da una ventina di volontari che hanno sparso per le strade di Colonia le prime 5 librerie ambulanti e i primi 200 libri. In pochi giorni sono diventati più di 1000 e l'iniziativa ha contagiato anche Berlino, Hannover e Bonn. Che siano nicchie in un albero o una struttura in acciaio poco importa, conta il fine. Far leggere chi ama farlo e far venire voglia agli altri, spiega Obermann. Anche chi i libri li vende sostiene l'idea. Non è concorrenza, al contrario, uno stimolo alla lettura, precisa Bettina Althaus, portavoce di Book.de, la più grande libreria tedesca online. L'iniziativa ora si sposterà anche nei quartieri più disagiati, dove l'accesso ai libri è ancora più difficile. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Nicola Perilli, Guarda, c'è un libro nell'albero, da Vanity Fair del 2 novembre.